24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Uno dei pochi film che ricordo ancora, forse la storia di Kunta Kinte. Questa è una delle storie che probabilmente non era il primo film, però è uno dei film che mi ha colpito e quindi insomma è rimasto molto forte nella mia mente. Il ministro Kyenge, Cecil Kyenge, quale film era Venezia? Quale film ricorda? Kunta Kinte, la storia di Kunta Kinte, così il ministro Cecil Kyenge ieri a Venezia. Sì, sì, non ce la contro la fila 3, Milan, sei proprio un coglione. Come cazzo fai a lavorare lì? Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Va bene, l'abbiamo abbastanza capito, abbastanza capito. Buongiorno cari italiani, siamo qui con 24 mattino, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia che mi ricorda ogni giorno con questo simpatico ascoltatore che lavoro in radio e la nostra Miriam Lucchetti in redazione lì pronta. Che dire? Prima di chiamare gli ospiti dobbiamo aprire il Parlamento? Sì, apriamolo anche oggi. Il nostro Parlamento, la saracinesca si può alzare. Il caffè volentieri a tutti. C'è sempre la nostra bella Nicole. Io non lo voglio il caffè. Nicole Minetti. Continui. Che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Va bene. Insomma. Allora il Parlamento riapre. In Italia ci si scapicolla con queste solite cose. Berlusconi, la telenovela Berlusconi oggi lo danno per Colomba, linea morbida. Questa è la telenovela Berlusconi. Poi c'è la telenovela Renzi. Prima però magari parleremo anche di cose un po' più importanti e serie. Intanto voglio salutare, dopo le vacanze torna con noi Vincino. Buongiorno Vincino, hai sentito Kunta Kinte, tu te lo ricordi? Radici. Assolutamente sì, Radici. Radici Kunta Kinte. Ma era una cosa lunga, era tante puntate. E la serie televisiva sì, era... c'era tutte e due, il film e la serie. Può essere, il romanzo, Radici, poi sì, il film, sì, serie televisiva Kunta Kinte, ma anche Totò ha detto mi piace anche Totò, a quelli della Lega mi piace Totò che soprattutto quando fa le battute in napoletano, ha detto la Kyenge. Vincino, ti devo presentare un ospite che ci parla da lontano, sì. È con noi, è il politologo professore Edward Luttwak dagli Stati Uniti. Stupendo. Professor Luttwak, buongiorno, buonanotte per lei, ci sente? Mezzanotte. Senta, professor... Pronto ad andare in Siria? Appunto, professor Luttwak, qua c'è poco da ridere e scherzare, altro che Berlusconi, Renzi, Kunta Kinte, la Kyenge. Qui fate la guerra alla Siria, come va a finire, professore? Beh, il presidente Obama sarebbe contento se il congresso gli dice di no, così si può andare tutti a casa e fare qualcosa di utile, perché è impossibile vedere un scenario dove è utile usare la forza in Siria. E perché allora ha detto, sembrava Obama il primo a dire no, bisogna intervenire. No, se lui voleva intervenire sarebbe intervenuto. Non doveva andare al congresso, non c'era nessuna necessità. Lui l'ha fatto come il tizio nel bar che non vuole che vai, fa passi indietro e stende le braccia per trovare qualcuno che lo ferma di fare una cosa che non vuole fare. Cioè quello che dice fermi Obama tutti. Era riluttante da 2 anni che subisce le critiche e gli attacchi dei grandi umanitari di questa terra, che non parlano mai dei milioni di morti del Congo, per carità, ma sono questi rumorosi che parlano non del milione in Congo, ma di 100.000 in Siria, non del milione in Congo, ma di 3 palestinesi e così via. Questi rumorosi vogliono spingerlo in azione militare. Cioè i falchi. In Siria, dove non c'è maniera di avere un risultato, perché se diciamo che spari un singolo colpo e magari ferisci una persona, se ferisci uno di Assad, rinforzi ribelli, che ne sono di tutti i colori, ma includono una massa di jihadisti. Ah. E di salafisti, cioè, quindi c'è il rischio di aiutare Al-Qaeda, però se invece un ribelle in rinforzi Assad, che è l'alleato dell'Iran e dei disgraziati del Hezbollah, i puzzolenti dell'Hezbollah e i degenerati iraniani, e quindi non c'è l'intervento militare in Siria che non è nocivo. Perciò Emma Bonino, ministro degli affari esteri italiano, ha avuto un rimedio più pulito, ha detto lo facciamo solo col consenso delle Nazioni Unite, sapendo che i russi diranno di no. Vabbè, insomma, Vincino, bella, no, certo, bella però questa immagine, Vincino, cioè Obama è come quello al bar che dice tenetemi se no vi picchio, tenetemi se no vi picchio. Il suo dramma personale è che lui ha riempito la sua amministrazione di entusiasti. C'è la Samantha Walker, l'ambasciatrice delle Nazioni Unite, quella che è l'autrice del famoso libro La responsabilità di proteggere, cioè tu non sei a casa, tu vai in giro per il mondo a salvare tutte le vedove e così via, che è una perfetta licenza per guerreggiare ogni giorno. Insomma, diciamo che la situazione è qui, Vincino, capito? Non possiamo non concordare, anche in Italia si fa così, quando non si vuole fare una cosa si fa una commissione, si va in Parlamento. Dice giustamente, se lo voleva fare lo faceva, via. No, ma infatti. Ma tra l'altro sai che c'è una fotografia che oggi viene riproposta da tutti i giornali, febbraio 2009, quando il segretario di Stato americano Kerry è ritratto a cena con lì Hitler, Assad, quello che ha detto adesso è Hitler, e sono lì amabilmente che conversano con la moglie di Assad. Febbraio 2009, questa foto pare stia anche imbarazzando in America, no? A cena col nemico, titolano oggi tutti i giornali. Ma come, 2 anni fa era il nemico, era l'amico, adesso diventa il nemico. Succede così, no? Vincino, che dobbiamo ci hanno fare? Mangiato tutti con lui, con suo padre, anzi suo padre credo che era pure nella guerra del deserto, no? Sì, può essere. Lutwak, un attimo, ma è vero che c'è questa foto che sta imbarazzando, la foto a cena di Kerry con... Ma perché imbarazza, scusami? No, non se lo tu so. Hai ogni giorno della settimana hai il dittatore del Qatar che viene applaudito e abbracciato, il re dell'Arabia Saudita, tutti questi disgraziatissimi dittatori che mangiano e bevono e sprecano e ognuno ha bisogno di 3 aeroplani privati, mentre milioni di persone vanno affamate. Sì. Allora, tutti questi disgraziati sono ricevuti e accettati. Se tu pensi che, non so, Iran Air, la compagnia aerea dell'Iran, a terra tranquilla a Francoforte, credo anche a Roma, cosa dovremmo fare? Sarebbe forse se non sarebbe la compagnia di Stato, di uno Stato terrorista puzzolente che impicca... Ma no, ma adesso personali e tutto il resto. Adesso ci creano problemi l'ambasciatore, ma perché non dovremmo far atterrare gli aerei della compagnia iraniana? Dico che noi conviviamo, tutti noi, americani e europei, abbracciamo, sbaciucchiamo questi dittatori arabi, una parte che si fregiano di titoli come re, sceicco, emiro, eccetera, ma tutta gentaglia che non fanno niente, quando vengono via Veneto con le loro mogli coperte di, come sembrano, dei sacchi di immondizia vaganti, entrano nelle gioierie e comprano questa roba, sempre perché i soldi in quei paesi vanno solo a chi non lavora. se tu fai l'errore di lavorare sei un morto di fame. Vabbè, so, Vincino, questa è la no, no, ma è chiaro, quindi, okay. Quindi non c'è nessun imbarazzo, visto che come ho capito, ma i sacchi di immondizia ambulanti adesso, Vincino, sono... Vabbè, i sacchi neri, così, no, ho capito. L'unico che manca è il coreano, il nordcoreano, forse. Ah, vabbè. L'unico con cui non va, perché quello ammazza le mogli, le cantanti, le cose, allora questo non fa fine, sì, no? Sì, sì, sì. Ammazzare la fidanzata non è... Kim Jong-un. A proposito, chissà Antonio Razzi come è andata a finire la vicenda, lo dovremmo chiamare, sai che Antonio Razzi è andato... No. È andato a... Come no? È andato in Corea del Nord. Ed è ritornato. Pare di sì. Tra l'altro il titolo era spettacolare. Razzi in Corea del Nord. Cioè, sembrava proprio un titolo. No, fatto lì, fatto e finito, preciso. Razzi in Corea del Nord. Ma era Antonio Razzi. Pare l'abbiano rilasciato. Non so se ha incontrato Kim Jong-un, ma ha detto che lui diceva che voleva incontrare Kim Sol-un. Manco sapeva come si chiamava. Magari gliel'hanno fatto pure incontrare, non lo so. Vabbè, quindi insomma la previsione, Lutwak, la previsione è che il congresso spera Obama gli dica di no, ma la previsione, i numeri come sono, cosa dirà il congresso? È più facile che dica di sì o è più facile all'attacco o di no? Oggi se vuoi scommettere, sì. Oggi se vuoi scommettere, molto, con difficoltà perché... Tutti gli esperti vedono 50-50, quindi è veramente diviso il congresso, 50-50. Ci sono quelli che sono contrari fortemente, chiaramente, quelli pro, eccetera, e in mezzo c'è una massa di gente che fanno domande pratiche e dicono, ma che tipo di azione militare si può fare? Cosa specificamente vuoi fare? Diciamo vuoi bombardare, ok, ma cosa vuoi bombardare? Vogliamo bombardare il palazzo di Assad? Se bombardiamo un deposito di gas nervino, è sicurissimo che anche se lo bruci e non muore neanche una persona, che loro rilasceranno gas nervino per ucciderne 5.000 e diranno che è la colpa delle bombe americane. Insomma, è chiaro che Assad l'ha già detto. Gli israeliani bombardavano. No, ma è chiaro, Assad l'ha già detto, attenzione, se colpite ci saranno le conseguenze. Per cui, Vincino, da congressi un po' più importanti al congresso del PD... In Italia, cioè, ci sono congressi che decidono cose, come dire, che cambiano la nostra vita. E il Renzi ha capito la debolezza intrinseca di Letta, cioè Letta non è nulla, ha capito, lui diventa segretario, ma Letta passano 10 giorni, 15 giorni e via, si è già sciolto, perché... Letta non ha mai conquistato nulla, è così, è un ragazzo di buona famiglia, così tanto per dire. Insomma, ma che è messo là così, lui che si è conquistato un sacco di cose, arriva là, ormai c'ha la maggior, il 90% no del PD, degli italiani. No, tra l'altro senti un po' la Finocchiaro dice io non lo voto, senti. Io non sono ancora stata convinta da Matteo Renzi del fatto che voglia fare davvero il segretario del PD, o piuttosto voglia fare il segretario del PD perché questo gli consente di fare il premier. Allora io credo che occorra... Vabbè, insomma, lei dice no, ha capito Vincino, no, la Finocchiaro no, non è convinta da Renzi, cosa deve aspettare? Mentre invece è convintissimo Franceschini, ma ti ricordi Franceschini come lo chiamava Matteo Renzi in un'intervista? Oggi lo ricorda il Fatto Quotidiano, come Matteo Renzi definiva Franceschini nel 2009, credo. Il vice disastro, cioè, perché era il vice di Veltroni, cioè vice disastro, il vice disastro Franceschini, che oggi dice no, voto Renzi, che dobbiamo fare? Che deve fare? Ma proprio così, proprio c'è l'assalto al carro del vincitore, no? E fortunatamente arriveremo presto a questa nuova fase e quindi ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, siamo con Vincino, siamo con Edward Lutwak dalle mezzanotte e mezza Stati Uniti. Professor Lutwak, dopo il traffico c'è la nostra segreteria telefonica, i nostri ascoltatori, poi voglio capire dall'America che ne pensate di Renzi e di Berlusconi, che oggi ci sono delle novità. 24 mattino. Caro Milan, purtroppo dobbiamo parlarci molto chiaro, dobbiamo eliminare lo Stato. Io ci ho lavorato dentro, ci sono un sacco di parassiti che non fanno un tubo, dai militari ai dirigenti, a tutti quelli che lavorano in Parlamento, dobbiamo cacciarli via, altrimenti altro che pagare tasse qua. Ci stanno sanguinando, caro Milan. Signor Milan, per cortesia, alzi la mano, va bene? Il primo italiano che non ha mai evaso il fisco, chi più e chi meno, va bene, il vizio ce l'abbiamo tutti, 60 milioni, siamo tutti quanti evasori fiscali, ve lo volete mettere in testa o no? Ah, volevo pregarvi, se qualcuno incontra il cavaliere, per favore gli dica: Cavalier Silvio, Cavalier Silvio, al gabbio, al gabbio. Vi ringrazio, arrivederci. Berlusconi non si rende conto che togliendo l'IMU noi paghiamo più tasse, noi poverini, che ci abbiamo un appartamentino di 36 metri quadri e che io prendo la pensione di lavoro, 24 anni di lavoro, di contributi, prendo 10.100 rotti l'anno. Noi poveri, noi poveri, dove andiamo a finire non lo so, tutti a mangiare alla carità. Era la segreteria telefonica di ieri, vabbè, così è successo, per due giorni abbiamo uguale, sempre uguale, sempre uguale. Professor Luttwak, siamo qui, siamo qui. Allora, le chiedo questo, dal punto di vista dell'America, come si vive la situazione italiana di politica, cioè questa come contiamo in America? Si parla di queste cose, Berlusconi, non Berlusconi, Renzi o non Renzi? L'unica cosa che si parla è il fatto che apparentemente c'è una legge in Italia abbastanza soffice che dice che se uno è condannato a 2 anni di pena non può avere cariche pubbliche. Questa è una legge molto modesta, perché in realtà 2 anni sono abbastanza molti. Si poteva semplicemente dire che è condannato in una cosa penale non può servire una carica pubblica, anche se è meno di 2 anni. Quello che non si capisce qui è il fatto che c'è una legge e la legge non viene applicata in maniera automatica, senza conversazioni e senza indugi. Questa è la parte che non è comprensibile. All'americano sfugge questo concetto, dice. Ma esatto, perché sennò la parola, non si usa la parola legge, si usa la parola come suggerimento. Consiglio, consigliamo, capito? Vincino, questa la parola legge vuol dire una cosa semplice, come il governo di Monti, che è il ministro degli affari esteri straordinario, pensavano che non dovevano obbedire al patto di dare indietro i 2 marò che la India aveva concesso sulla promessa dell'ambasciatore italiano. Il governo Monti, Mario Monti, pensava che i patti non si devono rispettare. Sì, e infatti gli questa abbiamo... è una cosa che ha causato una specie di... Gliel'abbiamo restituito. Di dubbio. No, ma interessante però questa visione. Per l'americano, hai capito, Vincino? Bisognava scrivere la legge Severino, è un consiglio, il consiglio Severino, no? Consiglieremmo a una persona condannata. La legge Severino è lei stessa, è ultronea in un certo senso, non è un di più. Ah, è un di più, cioè dovremmo... Beh, insomma, però si sa che in Italia, se no i condannati qua li mettono. Ma a proposito, sai la novità? Pare che Berlusconi, che è dato per Colomba, sia pronto a far firmare la richiesta di clemenza a Berlusconi. La firmeranno i figli. Sai chi la firmerà anche? Lo scrive il Corriere. Sì, chi? Veronica. Veronica. Addirittura. Da lei che partì tutti i guai. No. Appunto, Veronica Lario. Via economico, che cosa, stupendo. Potrebbe, sarebbe veramente il cerchio che si chiude, no? Veronica Lario. Ma secondo me Napolitano, dopo che si è assicurato la maggioranza con i 4 senatori, potrebbe anche firmarla, dici tanto. Sì, ma un colpo di qua, un colpo Napolitano ormai è fuori controllo completamente. No? Certo. E invece Luttwak, Renzi come lo vede dall'America? Renzi? Renzi è conosciuto non poco, naturalmente, diciamo il sindaco meglio conosciuto di tutta Italia è Leo Luca Orlando. Ah, è vero, è vero. Perché Leo Luca Orlando è la seconda volta, perché Leo Luca Orlando fa molte iniziative civiche, fa cose che, sai, cambia, non so se sono cose buone, eccetera, non sono esperto, ma fa cose sul territorio, cioè non fa discorsi politici che un povero americano non può capire, ma cerca di fare qualcosa nel disastro ambulante che è la città di Palermo, coperta di immondizia, eccetera, così. Lui, allora, Leo Luca Orlando è conosciuto come un sindaco che combatte condizioni difficilissime. Lui è conosciuto, gli altri per il momento non sono conosciuti. Non sono in passato c'erano sindaci, ma Renzi molto famosi, è stato in America, in varie città, ricordo Bologna. Sì, ma Renzi era in America. Leo Luca, mentre Renzi è percepito come un giovane nuovo sangue nella vecchia politica italiana, quindi automaticamente è favorito, favorevole, la gente è positiva su Renzi, semplicemente perché non è un vecchiaccio, perché sembra di capire che il dovere di un politico è di comunicare all'elettore in maniera chiara e così via, e non essere un brutto vecchiaccio. Non è mai questo. Renzi è appoggiato come politico, ma come sindaco e Leo Luca Orlando. Questo sì, Vincino, hai capito? È un vecchietto. Leo Luca Orlando un ufficio a New York. Sì, no? è vero. E poi devo dire che ha ragione. Io questo mese a Palermo l'ho visto ogni giorno, è là, va, corre da una strada. Sì, ma ci saremmo fatti degli amici a Palermo, che Lutwak dice città sommersa di rifiuti, disastro ambulante. Ma infatti è vero. Per raccontartene una, quando esce un camion con quattro addetti, se un addetto è ammalato, gli altri tre rimangono a casa. Non è che continuano lo stesso. È amicizia, è solidarietà. No, è vicinanza, cose sindacali così, per cui il disagio, cioè a Palermo ne sono 3.000 le turbine, mentre a Milano ne servono 800. Milano è pulita e Palermo è un disastro. Che ne sa. Però Luca deve lottare con questo disastro, in parte come la quarta volta che fa il sindaco. Sì. C'ha anche delle colpe precedenti, però per ora lotta, lui è l'assessore alla nettezza urbana. Comunque, secondo me è solidarietà, uno sta male e gli altri tre nei turbini non puliscono, è un modo per stargli vicini, che devi fare? Vi ringrazio, mi devo fermare qui, grazie a Edward Lutwak dall'America, buonanotte ovviamente, speriamo bene per la Siria, grazie a Vincino, ci saremo e ci rivedremo presto e ci risentiremo presto, ora è tempo di giornale radio, poi la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ebbene sì, siamo qua alle 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Allora, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo e avremo ospite Gianni Fattimo, europarlamentare, alle 8:15, perché è colui che sulla TAV ha avuto qualche problema. È stato anche convocato ieri in procura perché è andato a trovare alcuni no-TAV militanti in carcere. Anche lui in qualche modo appoggia le tesi di Harry De Luca, cioè va sabotata questa opera. E ci sarà con noi anche quell'imprenditore di cui ieri raccontavamo, imprenditore Giuseppe Benente, che ha detto: per i tanti attentati ai miei cantieri ho deciso di non lavorare più alla TAV e di andare probabilmente all'estero. Insomma, ma è davvero questo il modo di affrontare un'opera che, indipendentemente dal fatto che si possa considerare strategica o no, indipendentemente dal fatto che uno possa essere favorevole o no alla realizzazione di quest'opera, però davvero risulta incredibile che ci siano queste posizioni così radicali. Ne parleremo alle 8:15, ora andiamo a scoprire cosa ci presentano i quotidiani che trovate in edicola. Questo martedì 3 settembre, intanto vediamo le aperture. Il Sole 24 Ore apre su imprese e sindacati, ora la svolta, il cosiddetto patto di Genova tra imprese e sindacati. Così anche il Corriere della Sera, subito meno tasse sul lavoro, patto imprese e sindacati.

allenanti, 8 tate e vai a divertirti in palestra, dico io, o no, o sbaglio. Comunque, cari amici del Corriere, la carta costa e state attenti perché cominciate a esagerare con le vittorie di questa classifica. Ora è tempo di giornale radio, ci ritroviamo con gli ospiti dopo le 8:15. Ventiquattro mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sarebbe bello un paese in cui quando si realizza un'infrastruttura, un'opera, nessuno abbia nulla a dire, no? A me ha sempre colpito e mi è rimasta impressa l'immagine qualche anno fa, quando c'è stato il terremoto terribile in Giappone, vedere che in una settimana, in 7 giorni hanno ricostruito una strada. Pensate, 7 giorni. Beh, certo, quella è una strada, nessuno metteva in dubbio l'utilità di una strada. In Italia invece, quando c'è da fare un'opera, soprattutto opere magari controverse, nelle quali, sulla cui utilità si discute, come giusto che sia, ecco che ci sono le polemiche, le tensioni. Beh, e se c'è un'opera che è un'infrastruttura, racchiude tutto questo dentro di sé, le polemiche, le tensioni, le difficoltà, anche le violenze, questa è la TAV, la costruzione del treno ad alta velocità in Val di Susa, che parte della comunità della Val di Susa osteggia in maniera aperta, ha portato anche a vari scontri, a polemiche, anche polemiche verbali. Qualche giorno fa il procuratore capo di Torino, Caselli, ha detto: ci sono anche certi uomini di cultura e del mondo politico pronti a riscrivere in chiave pacifica le azioni di alcuni violenti. Forse si riferiva al procuratore capo Caselli anche, ma lo chiedo al diretto interessato, all'europarlamentare filosofo Gianni Vattimo, che saluto. Professor Vattimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Si riferiva a lei, secondo lei, anche in parte, no, a lei? So, certo. Io l'ho letto e effettivamente mi sono sentito coinvolto, ma non ho... a dire la verità, il problema vero, per tornare un momento alla questione dei terremoti, sì, a cui lei alludeva prima, i giapponesi hanno ricostruito... noi stiamo spendendo un sacco di soldi per questo cantiere della Val di Susa, ma moltissime zone dell'Emilia, che dovrebbero essere state ricostruite le cose dopo l'ultimo terremoto, all'Aquila non si fa. Quindi, come dire, sono molto sensibile al problema delle opere pubbliche che rimediano dei danni precedenti. Questa qui a me sembra che ne produce di nuovi. Questa no. Senta, le chiedo questo, però, per esempio, Henry De Luca, altro intellettuale, ha detto: è giusto sabotare la TAV perché si fa capire così che quest'opera è dannosa. Tra l'altro è stato tirato in ballo anche il passato di Henry De Luca, ex di Lotta Continua. Ecco, lei condivide una frase del genere? Ma spontaneamente sarei del suo parere, sono preoccupato naturalmente delle conseguenze, quindi, come dire, il sabotaggio, mi pare che De Luca si sia spinto troppo in là con questa affermazione, con questo uso di termine. Però che la popolazione civile che non vuole la TAV e che è maggioritaria, che ne pensino gli osservatori vari, abbia il diritto di farsi sentire in qualche modo, sì, per opporsi all'opera, io lo trovo... Insomma, c'è un'espressione che si chiama disobbedienza civile. Che cosa intendono, per esempio, i giudici del Tribunale di Torino per disobbedienza civile, o la escludono completamente? Beh, non so, fare manifestazioni, come fanno, cortei, striscioni, proteste. Cortei, sì, ma il corteo, per esempio, sempre disturba un po'. Se riempiono tutte le strade della Val di Susa, per esempio, di gente che si sdraia per terra per non far passare i camion della talpa, eccetera, eccetera, sì. Questo è un disturbo, cioè, voglio dire. Ma andrebbe bene, secondo lei, dovrebbero farlo, per esempio? Questo dovrebbero farlo, ci sono molti mezzi non violenti di resistenza che devono essere adoperati per questo caso, se vogliono. Però, scusi, se un'opera viene definita strategica, adesso mettiamo questo se ipotetico, ed è stata definita strategica, perché i tra virgolette localismi, seppure debbano essere rispettati, bisogna discutere con le popolazioni perché sono coinvolte, perché dovrebbero prevalere su un interesse generale? Beh, intanto l'interesse generale di quest'opera è del tutto dubbio. Ci sono fior di studi che non sono mai stati presi in considerazione da chi la definisce strategica, che mostrano che non solo non è utile, non è più economicamente funzionale in questo momento, perché il traffico ferroviario di merci invece di aumentare è diminuito, perché ci sono già altre cose, perché soprattutto il famoso corridoio 5 che si sbombazzava Lisbona a Kiev è andato tutto in dimenticatorio. I portoghesi non fanno più niente, gli ucraini nemmeno loro, solo noi dobbiamo fare questo famoso il buco. C'è una quantità di ragioni che mettono in dubbio oggi l'importanza di quest'opera. Però i scusi, francesi stessi del resto hanno sostenuto, hanno scritto pubblicamente che fino al 2030 non fanno niente. Però professor Vattimo, lei ha detto disobbedienza civile, per esempio, si potrebbe fare, si potrebbero sdraiare, impedire ai camion di arrivare in Val di Susa. Lei sa che tra l'altro doveva essere con noi un imprenditore, Giuseppe Benente, lo abbiamo chiamato poco fa, ma ha detto scusate, sono stato chiamato dalla questura, devo andare in questura, non posso più intervenire. È quell'imprenditore che ha detto mi hanno fatto l'ennesimo attentato incendiario perché io lavoro alla TAV. Cioè capisce che poi è un piccolo passo poi dare la stura magari a qualche violento per poter fare. Però, allora il problema è prima di tutto questa faccenda dell'incendio del Capannone, i valsusini non la vedono tanto chiara neanche adesso, cioè non è ovvio che sia stato un incendio notav. E chi potrebbe averlo incendiato? Potrebbe avere altre ragioni. Se l'ha incendiato da solo. L'edilizia è sempre un terreno di rivalità tra ditte, aziende, gruppi. Ah. Noi stessi, i notav hanno nel loro armamentario di argomenti anche il fatto che l'interesse per l'opera è principalmente in questo momento l'interesse delle aziende che lavorano all'opera. Cioè ci potrebbe essere una rivalità, essere una rivalità tra imprese invece che... Non lo so, però non voglio accettare l'idea che immediatamente se brucia il Capannone l'hanno fatto in notav. Poi bisogna anche considerare una seconda cosa, che io dico adesso la storia di non si può fare la frittata senza rompere le uova, in questo caso vuol dire il movimento notav non è un partito organizzato leninisticamente in cui ci sono i soldati e i capi, ci sono un sacco di persone motivate contro questa impresa che non rispondono a una disciplina unitaria, per cui si può capire che capitano delle cose di cui è giusto che gli autori si prendano la responsabilità. Questo sì. Però però intanto lei, professore, ieri è stato in procura, è stato convocato dai magistrati, perché lei a Ferragosto è andato a trovare alcuni carcerati come prerogativa dei parlamentari, e tra questi carcerati ha incontrato anche un esponente notav che era in carcere per aver aggredito l'accusa a un poliziotto. E tra l'altro ha portato con sé come assistenti o comunque collaboratori in carcere due esponenti notav. Uno era quello famoso che purtroppo cadde anche da un traliccio, Luca Bà. Insomma, a lei gli stanno un po' simpatici questi notav. Certo, io sono fondamentalmente impegnato nell'azione di opposizione al TAV, ma l'ho fatto anche con vari interventi al Parlamento europeo, chiamando l'Europa a non lasciarsi, perché lì c'è stato tutto un inizio dei lavori in cui in realtà l'Europa per pagare richiedeva certi termini eccetera che non sono stati rispettati, per esempio. Allora io richiamavo l'Europa dicendo no, non dovete dare i soldi perché questi qui stanno turlupinando o qualcosa del genere, va bene. E per fare tutto questo bisogna di conoscere la situazione dei notar. Sì, però professor Vattimo, perché è andato in carcere a trovare? Io sono andato in carcere come faccio spesso a Ferragosto, lo fanno, è un uso che hanno inventato i radicali e poi noi ci siamo accodati, io da diversi anni, adesso non ho un diario completo. Sì, questo è meritevole, meritorio. Sì, insomma, è una cosa, poi data ho capito, però si è portato due attivisti notav, cioè è andato... Ma mi sono portato due consulenti che mi informano su tutto ciò che riguarda il TAV. Allora, siccome mi trovavo lì in valle il giorno prima perché ho fatto una lezione di filosofia davanti al cancello da cui sono esclusi i notav, c'è un campeggio lì vicino, io sono andato lì a chiacchierare ho detto che sarei andato in carcere a visitare il carcere di Torino. Allora, e lo hanno detto, c'è anche il nostro amico Giacobbe, è dentro. E io ho detto benissimo, vado a trovarlo, visto che posso. E sono infatti andato, ho verificato le sue condizioni, che erano ottime, a dir la verità, molto migliori di quelle di altri carcerati, solo perché era uno nuovo, tenuto in una cella a parte, insomma, delle cose così, ma niente di drammatico. E in ogni caso tutta la visita si è svolta sotto, con l'accompagnamento e la vigilanza del direttore, del capo delle guardie del carcere. Ma senta, però, perché per esempio dire mettetevi, sdraiate, fate la disobbedienza civile, cioè bloccare una strada per esempio è un reato? E infatti è quello che dico anch'io, domando come può fare una popolazione come quella valsusina per far sentire le sue ragioni contro il TAV, quando non è mai stata ascoltata su queste ragioni. Sì, ma uno può far sentire le proprie ragioni, ma così non si fa mai niente in Italia, professor Vattimo. La popolazione valsusina sarebbe stata lietissima di discutere l'opportunità di fare la TAV o no. Ma nessuno gliela ha lasciato dire. Ci sono state tante riunioni, ci sono state assemblee. Sono state fatte fin dall'inizio dell'osservatorio soltanto tra i sindaci che erano favorevoli al TAV. Hanno escluso tutti quelli che erano contrari all'opera e poi hanno detto: beh, riunitevi voi e facciamo l'osservatorio, voi ci potete dire fatelo un po' più a sinistra, un po' più a destra. Ma secondo lei è mai possibile riuscire a fare un'opera del genere e tutti sono contenti? No, ci sarà sempre qualcuno, dei modi di consultare gli scontenti. Gli scontenti non sono mai stati consultati in nessun modo, cioè nessuno ha mai discusso ufficialmente. La sfido anche a guardare sui giornali, su cosa ha fatto l'osservatorio, eccetera, ha mai discusso ufficialmente le ragioni del non fare il TAV. Si è sempre detto, io stesso che sto in Piemonte, ho seguito le cose abbastanza dall'inizio, anche se l'inizio è stato ancora più lontano di quanto io mi ricordi, però fondamentalmente non c'è mai stato una vera discussione sull'opportunità di fare la TAV, no? Io ne ricordo. Comunque lei non sente che il rischio anche delle parole di persone influenti, di intellettuali, intellettuali come De Luca, intellettuali e politici come lei, possano in qualche modo... Io consiglio solo una resistenza non violenta. Quando c'è un'operazione... Però se è sempre lì, bloccare una strada è reato, quindi non sarà un'azione violenta, ma è un reato bloccare una strada. Lo so, per questo mi domando come può... Insomma, come può una popolazione farsi sentire quando è stata tacitata e subito militarizzata? Insomma, è un modo quasi un po' per capire anche le proteste che ci sono. Le proteste di piazza sono sempre un po' un disturbo. Non per niente poi appunto la polizia si mette in assetto la guerriglia. Però purtroppo ci sono delle situazioni in cui non c'è altro modo. Pensi un po' se la gente fosse stata più sensibile al problema di Ruby, nipote di Mubarak, quando il Parlamento dichiara che questa qui è la nipote di Mubarak. Cosa doveva fare la gente? Il popolo può anche mettersi in piazza a dire siete dei buffoni. E questo è un disturbo. C'è la libertà di farlo, qualcuno l'ha fatto. Qualcuno l'ha fatto, lo si fa, e quando lo si fa un po' di disturbo stradale, sociale, eccetera, si produce. Di lì a dire che questi qui sono come dei terroristi, francamente io lo trovo esagerato. Non sono terroristi questi, quelli che fanno, i pochi o i tanti che fanno queste violenze, secondo lei. Però non so, la persona che... non sono l'esempio della legalità che si vorrebbe, ma in questo caso il problema però è capisci, solo... andare a trovarli, per esempio, certo uno va a trovare in carcere, ma dà l'idea in qualche modo di solidarizzare con persone... Ma io solidarizzo con il loro scopo. Poi non solidarizzo e non sono affatto d'accordo su bruciare il capannone o strangolare qualcuno. Ho capito, però la persona che è in carcere, per esempio, è accusata di aver aggredito un poliziotto. È accusata e non condannata. E questo certo. Noi abbiamo un pubblico condannato, pluricondannato, definitivo, che siede in Senato e viene ricevuto dal Presidente della Repubblica, per favore, o come il sospetto di qualcuno, delle persone a cui si stia riferendo. Lo so, appunto, voglio dire. Diciamo, non facciamo tanto gli schizzinosi con questi poveretti. Ci sono dei ragazzi giovani che sono... Si capisce che quando c'è un movimento di strada... qualche uovo si rompe. E allora io, se si individua grava il rompitore delle uova, bene, non si mette in carcere. Però professor Vattimo, i magistrati dovrebbero tener conto del clima di grave provocazione che c'è in Val di Susa. Cioè la quale provocazione? Non è stata però consultata. Però scusi, è militarizzata. Subisce. Ma è militarizzata perché se si facesse in maniera normale subirebbero assalti, lo so, sassaiole. Però il clima che viviamo adesso, per cui potrebbe anche darsi che il capannone fosse stato bruciato, ma io non lo so e non, per adesso non lo voglio neanche ammettere. Questo clima è stato creato dall'arbitrio con cui il governo ha preteso di muoversi sulla questione della TAP. E quindi in qualche non modo ha mai ascoltato una discussione pacifica sull'opportunità di farla o non farla. Però, professor Vattimo, non crede che ci sia una come dire, sottile linea grigia nel dire io condanno le violenze, però queste persone sono solidali per il loro scopo, cioè che è quello bloccare la TAP. Se c'è uno sciopero, se c'è una manifestazione di strada in cui si sta davanti a Palazzo Chigi protestando, io sono solidale con questi qui. Se uno di loro tira una pietra a un poliziotto non sono solidale, sono convinto che ha fatto male e se c'è un reato lo si persegua. Però la situazione in cui qualcuno ha voglia di tirare delle pietre non è stata creata da questi poveretti, è stata creata dalla reazione eccessiva e di puro ordine pubblico del governo, che secondo me, ispirato dalla volontà di affermare la propria autorità, non sempre, a dire la verità, ripeto, siccome non è tanto interesse per della valle avere questi lavori, ma è interesse di chi fa i lavori, io molto sommessamente mi domando fino a che punto i partiti di governo non siano piuttosto con, insomma è difficile distinguerlo, ma sono d'accordo con quelli che stanno facendo i lavori e vogliono farglieli fare a tutti i costi. Sì, sì. A tutti i costi, i costi, i prezzi, i costi ambientali, sì, un'opera, un'opera non sono mai stati calcolati. In ogni caso, per concludere, lei ieri è andato in procura, è vero che ha detto ma mi sono trovato bene con questi magistrati anche perché la magistratura ha condannato Berlusconi e lei sempre sì, dice, ho detto, va a finire sempre. Come tutti dicono, l'ho detto un po' ironica, come, ma anche seriamente. Ho massima fiducia nella magistratura, visto, e sono sereno, visto come che hanno sempre detto tutti, visto, anche quelli che vengono condannati, anche quelli che vengono condannati, sono sereno. Momento, certo, una magistratura che ha avuto il coraggio di condannare Berlusconi in via definitiva merita massima fiducia. Ah, lei dice sono sereno, perché se hanno condannato Berlusconi vuol dire che mi posso fidare ciecamente della categoria. Ma, Malandrì, professore Malandrino, mi permetta, Malandrino. No, vabbè, che vuole fare. Tanto la ringrazio. No, io mi auguro davvero che le cose vadano avanti pacificamente, ma non che vadano avanti con lo Stato. Ma capisce, ma dicendo le cose però, come Harry De Luca, spero che non ci sia violenza, però capisco, sono sempre quei però, quei distinguo. Che cosa vuole, non si può, io non sono effettivamente soddisfatto che si faccia la TAV. Trovo che uno spreco questo, di denaro, uno questo spreco. Ma sai quanto costa ogni giorno tutto l'apparato militare? Pare 200.000 euro al giorno. Ma ripeto, lei dice l'apparato militare è colpa di come l'hanno creato. Uno può dire l'apparato militare, cioè per fare che ne so, la Milano-Venezia non c'è l'apparato militare, perché lì nessuno contesta. Le autorità possono domandarsi perché è stato necessario l'apparato militare, solo perché i valsusini sono particolarmente imbecilli? No, questo no, sicuramente c'è un'ostilità all'infrastruttura che altrove non si è notata. Comunque, professore, la ringrazio, speriamo che davvero vada a sentirci da qualche galera la prossima volta. No, sarà un po' difficile, la vengo a trovare con i miei assistenti, faccio passare per studenti universitari. Grazie, professor Vattimo, per essere stato con noi. Io vi ricordo 800 24 00 24, che ne pensate di questa vicenda in Italia? Tra poco continuiamo a parlarne, anche e soprattutto con le vostre telefonate, tra poco. 24 mattino. Eccoci qui allora, dopo aver sentito l'europarlamentare professor Giovanni Vattimo, siamo con alle 8:39 minuti, siamo con gli ascoltatori 800 24 00 24. Allora, intanto mi interessa sapere che ne pensate di questo clima anche che si è creato e che si crea, e le parole sia di Vattimo sia di Harry De Luca, che ieri era anche alla Zanzara da Giuseppe Cruciani. Per esempio Federico dalla provincia di Cuneo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, mi sentite? Sì, benissimo, dica. Ma guardi, il punto di vista mio è forse non convenzionale e serve probabilmente a cambiare un po' la luce su questa vicenda. Quello che non si riesce ancora a capire è se le ragioni del contrasto a questa opera sono di natura economico, macro, pianificatoria, di economia nazionale, che avrebbe una certa linea di condotta, una certa linea di pensiero, più ragionieristico direi, o se invece è questa opera rovina i fiorellini, i prati, le mucche al pascolo della Val di Susa. Sicuramente è un aspetto economico, soprattutto economico, e di non, cioè, capisce, per il costo che ha non porterà beneficio, questo secondo chi osteggia l'opera, non porta alcun beneficio di quello che invece un'infrastruttura dovrebbe portare. Di ragioneria dello Stato, cioè spendo X, ottengo Y, ma la violenza che vedo all'interno di queste iniziative, soprattutto questo essere così vocali da parte di tutti i valsusini, mi fa credere invece, o almeno a sentire loro, che sia anche impattante sulla valle. Beh, certo, è impattante anche sulla valle, è una valle molto stretta, c'è tutto, cioè, è chiaro che c'è una chi la osteggia da sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista economico, sia perché ha un impatto nella valle, eccetera. Comunque, Federico, la ringrazio. Io, siccome lo avevo annunciato in apertura anche con Gianni Vattimo, però è stato chiamato per andare in questura, ma ora forse si è liberato qualche minuto, Giuseppe Benente, che è un imprenditore. Benente, buongiorno, mi sente? Buongiorno. Titolare della Geomond di Rivoli, in provincia di Torino, che lavora ai cantieri in Ottava. Allora, come va? Sa che Gianni Vattimo poco fa ha collegato, ha detto, per carità, io non voglio dirlo, non lo so, ma non è detto che gli attentati che ci sono stati ai suoi cantieri, ai suoi, signor Benente, siano per forza riconducibili ai Notav. Così ha detto Vattimo, ha detto staremo a vedere, insomma non è automatico, perché per forza debbano essere stati Notav? Lei che replicherebbe? Ma per carità, io non voglio accusare nessuno, però uno più uno fa due, poi saranno le indagini a dire quello che è successo, no? Però siccome non è il primo di atti di questo tipo, ma è il dodicesimo, e stranamente sono tutti collegati alle società che hanno lavorato su quel cantiere, che lavorano su quel cantiere e che hanno prestato la loro opera per avviare questo cantiere, quindi la situazione è questa. Ci faccia capire, ma perché c'è secondo lei questa ostilità all'opera, che si concretizza anche con anche attentati agli imprenditori che lavorano? Per me ormai non è più una guerra all'opera, ma questa è una guerra allo Stato. Poi lo dicono espressamente i siti del movimento, che la Val di Susa è una scuola di guerra, quindi cioè, non è più una guerra all'opera, l'opera è, a questo punto conta e non conta, qua si sta facendo una guerra allo Stato. È venuto a trovarla il vice ministro Fassina ieri, leggo sui giornali. Lei si sente lei si sente tutelato dallo Stato? Perché si parla per esempio di dare un'assicurazione dello Stato, un'assicurazione di Stato a chi lavora a un'impresa come la TAV, che è così contestata. Ma è tutto relativo, ieri abbiamo fatto dei bei discorsi, speriamo che quelle che sono le parole si concretizzino nei fatti, se quelle che sono le idee che abbiamo messo sul tavolo saranno concretizzate sicuramente sono delle belle idee, il discorso di assicurazione, risarcimento, questo è tutto relativo, il danno economico in questo momento non conta nulla, conta avere delle società che possono produrre un reddito, che possono dare un lavoro, e questa è la cosa più importante in un momento come questo. Che ne pensa Benente di Henry De Luca, che dice la TAV va sabotata perché... L'iniziazione a delinquere, io spero che debba rendere conto di quanto ha affermato. Non uso un termine diverso dall'istigazione a delinquere. Istigazione a delinquere. E Vattimo prima invece dice: io distingo assolutamente, sono contro chi fa azioni violente, sono contro se qualche notav ha davvero bruciato questi e ha fatto questo attentato, deve essere preso, deve essere punito, però sono contro l'opera anche. E simpatizzo con chi osteggia quest'opera, è un qualcosa che si può fare. Per carità, io sono vicino anche a persone del movimento, rispetto le idee di chi è contrario all'opera, se la manifestazione delle proprie idee è fatto in un modo corretto. Quindi io non contesto assolutamente chi manifesta contro un'opera, che in ogni caso ho sentito qualcosa prima, non è così impattante come si vuole far dire. Credere. Ma lei aveva detto in giorni scorsi che sarebbe stato pronto a chiudere tutto, andare all'estero, cioè a non lavorare più. Ha ancora senso lavorare? E capisco che per un imprenditore la domanda sarebbe stupida in un'altra situazione. Ha senso lavorare? Uno fa quel lavoro, ma ha senso continuare a lavorare in un'opera come la TAV in queste condizioni? Allora, per me il lavoro è lavoro, non faccio una distinzione. Sicuramente quando poi succedono questi fatti e in concomitanza a questi fatti, a questo essere demotivati per lavorare qua, abbiamo dall'altra parte della gente, delle società, dei tecnici che ci stimano per quello che facciamo, per quello che sappiamo fare e ci dicono perché continui a rimanere lì, vieni con noi e andiamo da un'altra parte, sicuramente è facile fare questa scelta. È una cosa che probabilmente non avrei mai fatto, ma in questo momento non nascondo che ho già accettato un primo impegno. Quindi... Cioè? Un primo impegno? Io adesso partirò a metà mese per una consulenza in India per 3 settimane, ecco. E poi da lì valuteremo. Quindi per il momento, diciamo, sì. Questo l'ha aiutata a decidere di dire vado un attimo. Sicuramente sì, questo è stato quello che mi ha fatto decidere. Mi spiace portare una nostra esperienza, una nostra tecnologia su questo tipo di mestiere che facciamo noi, dove in Italia siamo i migliori al mondo, portarla fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia. Senta, secondo lei, dice istigazione a delinquere, per lei Re De Luca, ma lei lo denuncerebbe, per esempio, per degli estremi? Ma io non vado a denunciare Re De Luca perché non era un'accusa diretta nei miei confronti, ma sicuramente quelle che sono state le frasi infamanti che sono state pubblicate sempre su un sito del Movimento Notav sono già state denunciate e c'è già una querela in corso. Una querela in corso, cioè nei confronti di Re De Luca o del sito che ha pubblicato? No, noi abbiamo fatto una denuncia nei confronti del sito che ha pubblicato frasi infamanti sia su di me che sulle forze dell'ordine. Ma scusi, mi faccia capire, infamanti di che tipo? Cioè che vuol dire? Beh, infamanti che intanto l'incendio era un danno provocato da noi stessi per percepire dei soldi di un'assicurazione, questa è la prima frase, quando dimenticano che però le società che lavorano su quest'opera noi non riusciamo a chiudere contratti assicurativi perché non ci assicura nessuno, quindi intanto le macchine non erano assicurate perché non abbiamo la possibilità di assicurarle. Secondo, sono uscite fuori delle frasi diffamanti, nel senso che quello che è successo è un atto intimidatorio da parte del cantiere e delle forze dell'ordine, in quanto loro sostengono che io avrei dato informazioni su delle situazioni di cantiere che nel momento stesso in cui mi sono reso conto che qualcuno aveva scoperto queste cose mi sono tirato indietro e a quel punto sono stato punito. E qui vengono citate le forze dell'ordine, quindi è stata fatta una denuncia per questo tipo di accuse che lei dice infamanti. Sia da parte mia che vabbè, intanto io le faccio in bocca al lupo, spero che possa continuare a lavorare in Italia o dove lo ritiene più opportuno. Mi spiace, insomma, se questa decisione di andare in India sia stata anche e sia scaturita, come ci ha detto, da questa situazione. La ringrazio, Giuseppe Benente. Devo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi con noi e c'è qualche ascoltatore, ma anche il senatore Stefano Esposito del PD, che intanto voglio salutare. Senatore, buongiorno. Le chiedo ancora un attimo di pazienza, un minuto e sono da lei. Allora, eccoci, il senatore Esposito. Buongiorno senatore, lei è considerato un senatore pro-TAV, questo gli ha causato anche non pochi problemi, ovviamente. Le chiedo intanto questo, lei che ne pensa delle frasi di Re De Luca, per esempio? Buongiorno intanto, ma io l'ho scritto ieri cosa penso. Io credo che siamo di fronte all'eccesso di una figura che viene definita un intellettuale che ha nel suo curriculum penale il peggio che si possa immaginare. Lui è stato il capo del servizio di notte continua, ancora alcuni anni fa nel 2009 contestava che le Brigate Rosse fossero terroristi, ma disse che si trattò di una guerra civile. Tutti noi ricordiamo che cosa ha significato quel periodo per l'Italia, ed è uno di quelli che non ha mai neanche preso le distanze dall'omicidio calabrese, di cui evidentemente conosce dettagli che noi comuni mortali e gente per bene onesta non possiamo conoscere. Beh, però sul omicidio calabrese non è stato mai personalmente, credo. No, è stato lui, ha avuto un'imputazione per rapina, ne è uscito, ma io cito le sue frasi. Lui disse: inutile parlare di banda armata, non c'era bisogno di nessuna banda armata per ammazzare quel commissario, era sufficiente la nostra ira nei confronti dello Stato. Poi ognuno interpreta come vuole, ma è evidente che continuare a dare questo tipo di messaggio, che poi viene rivolto e amplificato nei confronti di persone che già oggi non perdono occasione per utilizzare lo strumento della violenza per manifestare il loro dissenso, sì, credo non sia una cosa utile. Ma però, senatore, che potrebbe fare una popolazione che magari comprensibilmente, secondo le ragioni di chi è contro l'opera, è contraria alla realizzazione di questa infrastruttura e che si vede invece questa infrastruttura costruita sotto i propri occhi? Che potrebbero fare? Ma guardi, io ho ascoltato anche le cose che ha detto Vattimo poco fa. Ma di quale popolazione stiamo parlando però? Perché vede, c'è stato un grande movimento popolare in Val di Susa, che è un movimento popolare che ha avuto la sua vittoria politica, peraltro attraverso un percorso pacifico. Ci sono state manifestazioni fino al 2005-2006 di popolo, come le ho definite io, che contestavano un progetto che oggi non c'è più, e avevano ragione, peraltro, tant'è che le loro ragioni sono state riconosciute con l'istituzione dell'osservatorio e la modifica del progetto con l'accoglimento del 90% delle loro istanze. Faccio solo un esempio, perché non voglio entrare nel dettaglio tecnico, ma il progetto fino al 2006 prevedeva la linea tutta in superficie, oggi la prevede per l'85% in galleria, che era una delle richieste, no, che veniva alcune fatte. Conquiste sono state fatte, lei le dice. Conquiste sono state fatte, tant'è che il capo storico di quel movimento è entrato nell'osservatorio, si è seduto al tavolo e ancora oggi si confronta per rendere il progetto e le conseguenze. E quindi chi contesta, chi è rimasto? Quindi oggi non c'è più quel movimento popolare, non ci sono più le ragioni di quel movimento popolare, ci sono delle dissidenze che sono legittime, perché siamo un paese, ricordiamolo, che sulle grandi opere ha come esempio fulgido la Salerno-Reggio Calabria, quindi ci sono anche delle motivazioni naturalmente, ma oggi è diventata un'altra cosa. Guardi, quando, se lei trova il tempo di leggersi le dichiarazioni di alcuni capi storici, ieri il Sandro Plano, il presidente della Comunità Montana, scrivendo a Caselli, rispondendo alle parole di Caselli, ha detto: ormai in Val di Susa non è più una questione treno sì, treno no. Qui si concentrano tutti quelli che pensano che bisogna fare una battaglia contro questo modello contro di sviluppo, lo Stato, e contro questo governo. E che ne pensa dell'imprenditore che ha sentito forse adesso in coda parlare, che dice: beh, intanto per il momento me ne vado in India, perché non si sa mai. Guarda, io ieri ho accompagnato il vice ministro Fassina, quindi conosco bene Giuseppe Benente, ero con lui ieri, abbiamo parlato lungamente, e guardi, Benente non ce la fa più, ma non ce la fanno più tanti imprenditori. Questa mattina, io l'ho incontrato ieri sera, il proprietario dell'hotel Ninfa, dove erano ospitate le forze dell'ordine, quell'hotel che è stato attaccato da una quarantina, cinquantina di questi, quelli che io definisco delinquenti, che non c'entrano nulla in realtà con la TAV, ma che si nascondono dietro la bandiera no TAV, che nei mesi scorsi sono andati a contestare. Sa qual è stato il risultato? Quale? Il quale io peraltro imputo allo Stato un gravissimo errore, che i carabinieri sono stati tolti da quell'albergo e l'imprenditore oggi annuncia sui giornali che chiuderà. Io adesso questa mattina mi occuperò dell'argomento chiedendo al Ministero degli Interni per quale ragione se 40 delinquenti vanno a creare problemi ad un albergo perché ospita le forze dell'ordine, e se gli diamo anche la soddisfazione. Ma è chiaro, ma questa è la situazione che rimane. Io, senatore Esposito, la devo salutare, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina alle 6:30. Ventiquattro mattino.